non c'è tempo per tutto. Non so dove è il gruppo, non so dove li butto. I giorni che non sfrutto, non c'è niente da fare, non c'è niente da dire, tutto da stabilire. Si sa di soffrire, niente che sia adatto. Cammino e sbatto, un muro appena fatto, colpa di un altro, funziona per finta. Serve una spinta, signora non convinta, che si fa la tinta. Ascolti il falso, ti cammini scalzo. Questo solo è arso, è un letargo di un orso. C'è molto da dare, ma niente da offrire. Tutto si può scalfire per farlo apparire. Scendi in piazza, scodella la farsa, becchi la befana, riempirsi la calza. Credi a illusioni, senti strani suoni, ti strappi i pantaloni in preda alle convulsioni. Cerchi conclusioni, ascolti opinioni e non svolgi le tue mansioni. Niente satira, non ridere ancora. C'è gente che piange col cuore in gola. Guarda il cielo, c'è un asino che vola. Voi dovreste tornare a scuola. Niente satira, non ridere ancora. C'è gente che piange col cuore in gola. Guarda il cielo, c'è un asino che vola. Voi dovreste tornare a scuola. Tornare a scuola? O no? L'anziano va piano, lo malediciamo. Parliamo e mangiamo, beviamo, guidiamo. Poi quando finiamo ci chiediamo chi siamo. Nessuno è sano e tutto è profano. Rischi di farti male, quasi tutto è infame. Può galleggiare, puoi già immaginare. La forma può cambiare, la scritta sul giornale. L'inquinamento è il mare, chi non sa ascoltare. Respiri lo sporco, carne di porco che arriva dal porto. Non te ne sei accorto, l'ora della resa. Ho corrente senza presi, ho la bici senza freni. È un'assurda discesa, se non ci arrivi. Meglio che ti privi per ricordarti, a volte lo scrivi. C'è un manifesto di questo contesto. Io sono negativo, lo scrivo nel testo. La paura non esiste, ma la scena è triste. Lo pronunciano già le nuove riviste. Niente satira, non ridere ancora. C'è gente che piange col cuore in gola. Guarda il cielo, c'è un asino che vola. Voi dovreste tornare a scuola. Niente satira, non ridere ancora. C'è gente che piange col cuore in gola. Guarda il cielo, c'è un asino che vola. Voi dovreste tornare a scuola. Niente satira, non ridere ancora. C'è gente che piange col cuore in gola. Guarda il cielo, c'è un asino che vola. Voi dovreste tornare a scuola. Niente satira, non ridere ancora. C'è gente che piange col cuore in gola. Guarda il cielo, c'è un asino che vola. Voi dovreste tornare a scuola.